puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Parenzo, eccomi. Parenzo, è tornato Berlusconi. Non ti spaventare, non è successo niente, ha semplicemente presentato il nuovo sito del PDL, pdl.it, dimostrandosi ancora una volta un grande esperto di tecnologia, devo dire. Tu ti ricordi quello che disse una volta, come pronunciò Google? Google, cos'è che ha detto? No, ma non ti ricordi niente. No, informati, che memoria che hai, pessima. Memoria corta, amico mio, che dice, professore? È vero che ne ha dette tante, per carità. Però, ti ricordi come pronunciò Google? Ti ripeto, come fai a non ricordarti? Risentiamo. C'è per esempio anche un uso di Google o di altri strumenti. Google! Ma come Google? Era una citazione di uno scrittore russo, forse? No, era Google. Certo. Ma non te la ricordi questa Google? Ma come no? Mi ricordo il contesto, era Bruno Vespa. Ah, sì, ma quale Bruno? Ah, sì, forse era Bruno Vespa. Ma no, cioè, ricordo questo, era la presentazione del libro di Vespa. Ricordi solo questo, ormai fai fatica, cioè hai 10 anni meno di me eppure fai fatica a ricordare queste cose, va bene. E perché oggi ne ha detta un'altra, mi sembra. Sentite come pronuncia iPad. Ringrazio davvero di cuore Angelino Alfano e Antonio Palmieri che hanno preparato questo nuovo portale così ricco di novità, con una grafica semplice e moderna, accessibile anche dal cellulare e dall'iPod. Vi prego, fammi risentire questo iPad. Magari è giusto così, ci sbagliamo noi, siamo sempre lì a criticare, no? Com'è la pronuncia? Com'è? Accessibile anche dal cellulare e dall'iPod. Magari ha ragione lui, Vabbè, ma lui è un uomo proiettato nel passato. Secondo Berlusconi vincerà l'amore con questo portale. Ha detto proprio così. No. Qui vincerà l'amore, sì. Ma non è possibile. No, è possibile, è possibilissimo. Senti. Noi, a pensarci bene, e internet, abbiamo parecchie cose in comune. La rete è un luogo di libertà, di ascolto, di dialogo con tutti, anche con i nostri concorrenti. E qui, d'ora in poi, come abbiamo sempre fatto, sapremo difendere i nostri valori di libertà e di democrazia. Anche qui riusciremo a far vincere l'amore sull'invidia e sull'odio. Ma adesso io dico una cosa. Io non ci credo che di suo pugno Berlusconi abbia scritto queste cose, non ci voglio credere, né credo che le abbia scritte il signor Antonio Palmieri, che conosciamo, sì, il deputato persona. Antonio Palmieri, una brava persona, un uomo onesto, faccia pulita, schiena diritta. Beh, adesso sì. Questo non lo so, adesso ti stai allargando, però no, mi pare abbia avuto nessun tipo di inchiesta, ma che c'entra, pochi, sempre con le inchieste, pochi. Sempre a parlare di inchieste. Io non ne vorrei parlare. Sei fissato, hai un tarlo. Ma non vorrei, io non vorrei. Hai un tarlo, devi collegare qualcuno alle inchieste. Cioè, la tua unica dimensione è quella lì. Ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere questo aspetto. Ho detto che è una brava persona. Chi scrive queste cose? Perché non pensa che è la presentazione di un portale? Quando uno presenta un portale internet, della libertà. Poi non si fanno discorsi ufficiali, cioè trionfo in questo portale, trionferà l'amore. Ma cosa vuol dire? Ma poi bisognerebbe ricordare al signor Berlusconi che il suo governo era quello che voleva mettere la mordacchia. Ma quale mordacchia? A internet e alla rete. Ma questa è un'altra stronzata. Perché anche lei, professore, ha la memoria un po' cortina. Questa è una stronzata, la mia discesa in rete. Sentiamo ancora Berlusconi di oggi. Oggi, dopo 18 anni, siamo qui ad annunciare la nostra discesa in rete, convinti che la rete sia la nuova Agorà, un formidabile luogo di incontro. Hai scoperto una cosa nuova, devo dire, eh? La rete, un formidabile Agorà. Una cosa nuova, moderna, una cosa degli ultimi giorni soprattutto, no? Una cosa degli ultimi giorni. Vabbè, lasciamo perdere le ironie su Berlusconi. Visto che lui era quello che voleva presentare il DDL sulle intercettazioni, dove si metteva la mordacchia anche alla rete. Sì, sicuro, e lo voglio... No, te lo voglio ricordare, il 26 settembre del 2011. Vabbè. Cacciari, formigoni ignobile, Cacciari da noi ieri sera, pensi a finire il mandato sulla vicenda Minetti, candidatura Don Verzè. Sentiamo. È ignobile, ma è meglio riderci sopra, perché anche Formigoni fa parte di quelli ormai bolliti, e quindi è inutile perderci tempo a parlarci sopra. Credo che la sua ambizione più giusta sia quella di durare fino alla fine della legislatura in regione, perché mi pare che la Lega se i Bossi... Ma la frase di oggi è certamente quella di Bossi ancora una volta, spero di averla in audio fino prima della fine della puntata, ancora non circola tra i vari siti, tra le varie televisioni, quella di Bossi che ha dato della mezza calzetta a Berlusconi perché non stacca la spina a Monti, e Berlusconi ha detto: noi siamo responsabili e continuiamo ad appoggiare Monti. Ma naturalmente non è la prima volta, no? Beh, ricordate cosa soprattutto del Bossi contro Berlusconi, quello di metà degli anni 90, quello che dà a Berlusconi del mafioso. Bravo. Di Arcore. Questa volta lo ricordi, eh? Per l'esattezza, dice il mafioso di Arcore, per l'esattezza. Bene, io l'altro giorno in aula guardavo quello che stava avvenendo e mi sono reso ben conto di qual era, di quale avrebbe dovuto essere nel progetto di quel là, quel mafioso là, lo vedete? Ecco, quel mafioso, quello che fece la Finides con i quattrini di Cosa Nostra. Il rapporto altalenante Bossi-Berlusconi passò anche attraverso queste frasi, poi fu tutto cancellato. Adesso si arriva alla mezza calzetta, un po' meno forte di mafioso, diciamo. Direi. E prima di presentarvi un ospite, un grande ritorno nel mondo della politica, caro Parenzo, un grandissimo ritorno. Si disse una volta, anzi lo dicono ancora, che è l'unica legge seria, e poi l'unica legge che veramente ha funzionato di tutti i governi Berlusconi. Io direi l'unica legge che funziona davvero in Italia negli ultimi 20 anni. Comunque, un meraviglioso Mughini sulle manifestazioni in generale, sulle manifestazioni che la fanno da padroni in Italia, diciamo la verità, perché non è che c'è un problema di democrazia in Italia di manifestare. Giampiero Mughini oggi ad Agorà. Guarda, siccome io vado in autobus a lavorare, a fare un lavoro su cui pago il 52%, mi rompo le balle a vedere ogni 5 minuti signori che sventolano il nulla, perché la piazza, sai, la piazza non moltiplica i pani e i pesci. Alleanza di centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare. Diventerà giorni il nuovo presidente di Alleanza di Centro per l'Italia, di cui sentite il meraviglioso inno, il partito di Francesco Pionati, il professor Girolamo Sirchia. Buonasera. Buonasera. Come sta, professore? No, abbastanza bene, mi difendo. Si difende? Sì, abbastanza. Ma insomma, professore. Ma professore, ma perché con la sua storia, la sua bellissima biografia, le sue doti accademiche e scientifiche, è finito in Alleanza di Centro per l'Italia, professore? Perché l'ha fatto, amico mio? Perché? Penso di fare una scelta buona, nel senso che mi sembra un gruppo di persone che ha voglia di fare della politica seria e sperabilmente nuova in questo paese. Senta, com'è stato l'incontro? Come mai questo incontro con Pionati? Cioè, una persona che ho conosciuto e mi ha convinto, perché subito, a prima vista? A prima vista? Non a prima vista, no, ma insomma mi ha abbastanza convinto, perché mi sembra una persona corretta, sì, che ha voglia di fare delle cose. Ecco, non è stato, mi dica la verità, è stato un po' è scoccata subito la scintilla con il signor Pionati, che noi conosciamo bene, sempre ospite, certo, di questa trasmissione, c'è un nostro amico. Mi dica una cosa, è stato amore a prima vista? Cioè, ci siamo incontrati, ci siamo parlati ed è scoppiata un'entente, un'intesa? Ma però adesso non bisogna esagerare, cioè ci siamo incontrati e abbiamo ragionato su un po' di temi. Io gli ho detto quello che erano i miei sentimenti e lui li ha condivisi, quindi ci siamo lasciati poi ritrovati con simpatia e da lì è nato poi una simpatia che sopporta questo. Sì. Presidente di Alleanza di Centro-Media, lei vuole tornare in Parlamento, onorevole Sirchia? No, assolutamente no. Ma come, io non sono mai stato in Parlamento, quindi non sono mai stato in Parlamento, non sono mai stato un... Ah, lei era uno dei pochi che era ministro e non parlamentare? Esatto, sì. Tra il 2001 e il 2006 lei non è stato parlamentare, no? No, io sono stato ministro della salute, sì. Ma come ministro uno dei pochi che non era, non vuole andare in Parlamento, siamo sicuri? Assolutamente non mi interessa. Ma serviva, professor, sì, io la chiamo professore perché è un medico brillante, è stato secondo me anche un bravo ministro della salute. Beh, autore della famosa legge, contro il fumo nei locali pubblici. Le famose porzioni Sirchia che io ordino sempre al ristorante. Quelle ebbero meno successo, diciamo. Fu una cosa molto giusta, però non voglio andare sugli 80 grammi della porzione Sirchia che io anche a casa applico. Ma dico, ma un professore come lei, Alleanza di Centro per l'Italia, cioè, lo sa lei? Ma tu fai troppo lo schizzinoso. Ma perché dico, lui magari poteva aspirare, che so io, così a rimanere nella storia come ministro della salute, perché poi presidente, cioè, cosa farà come presidente? Cosa fa il presidente di Alleanza di Centro per l'Italia? Questo è fondamentale. Beh, cerca di disegnare delle strategie e affidarle alla politica perché le realizzi. Fa un po' l'aspetto culturale. Aspetto culturale. Senta, una cosa, ma mi dica una cosa, ma chi è che per quel provvedimento ancora oggi dei vecchi ministri, dei politici, non dico che la odia, ma insomma la guarda sempre, ogni tanto c'è qualche parola, no, cattiva su di lei? Ma non lo so, francamente, spero che non siano tanti, ma non saprei dire, non so. Bossi? Non so. Bossi? Non lo so, non ho mai sentito per altro. Qualcuno ce l'ha avuta con lei per tanti anni, no? Sì, beh, all'epoca quando venne disegnata la legge e poi venne portata all'approvazione, sicuramente ci furono delle persone che non condividevano questa strada. Quindi... Senta, Berlusconi ne sente la mancanza lei? In che senso? Politicamente ne sente la mancanza oppure... No, non si sente la mancanza di Berlusconi, diciamo. È liberato. No, cioè io non parlo di me. Non sentiamo politicamente la mancanza di Berlusconi, insomma. L'ha molto delusa, immagino, Berlusconi, da quello che dice. Non la capisco. Dico, l'ha molto delusa Berlusconi? No, cioè sono state fatte molte cose che forse potevano essere fatte, o alcune cose che forse potevano essere fatte. Quindi... Cioè meglio Monti, più sobri, più nel suo stile il signor Monti, no? Nello stile Sirchia. Vedremo, se io mi auguro che lui riesca a fare, certamente, perché abbiamo tanto bisogno di gente che fa delle cose che fanno rinascere il paese. Perché prima il governo Berlusconi, insomma, è stato un fallimento, diciamo la verità. Ma sai, la politica in genere, che purtroppo ha deluso molta gente, me compreso. Quindi... Berlusconi in primis l'ha delusa, immagino. Mi ha deluso Berlusconi quando poteva fare, come ho già detto, e non ha fatto in alcuni ambiti, e questo mi è dispiaciuto. Alleanza di Centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare. Renzo, canta anche tu. Alleanza di Centro per la storia. Per questa nostra patria da salvare. Professore, bisogna che impari questa canzone, perché io canto malissimo. Cioè. Canta malissimo, tu che? Non sono un cantante. No. Non è un cantante. Al professor Sirchi, al medico, sì. Però più che al politico, sì, al medico. Sì. Che vuoi chiedere a me? Un consiglio? Che vuoi chiedere? Da medico, no, non ho per ora problemi particolari. Da medico, volevo chiedere qual è lo stato di salute del PDL, secondo te? Dovresti fare una diagnosi, no? Lei è mai stato iscritto al PDL? No, mai. Mai? Non ci ha pensato mai, nemmeno lontanamente a iscriversi al PDL? No, io ho fatto il ministro tecnico, non avevo. Cioè, appartengo all'area di centrodestra come mio pensiero, sì. Ma. Sì. senza identificarmi con un partito in particolare. Insomma. Ecco, lo stato di salute del PDL, seguiamo questa domanda di Parenzo. Com'è magari stato? È una sciocchezza, però. Ma sicuramente una sciocchezza, però lasciamo rispondere il professor. Siamo all'encefalogramma piatto, qual è la situazione? Ma guardi, io non so. Usiamo una metafora clinica. Ma non mi sentirei di parlare di retroceduto. Vabbè, il centrodestra, perché... il centrodestra, più che il PDL, il centrodestra in generale, con tutte queste cose, la Lega, le difficoltà del PDL, ecco, il governo Monti, insomma, che è encefalogramma piatto, c'è qualche speranza di vita, com'è la situazione? Ma non è il PDL, è la politica italiana che è in difficoltà. Vabbè, adesso stiamo parlando del centrodestra, è vero che tutto è in difficoltà, non c'è dubbio. Il centrodestra fa parte della politica italiana, ma è così anche il centrosinistra, non cambia niente. Cioè è il sistema che ormai è arrivato a un livello che veramente ha allontanato la gente, l'ha delusa, l'ha disgustata, questo è il punto. E quindi a parte gli iscritti. Per cui i tecnici le piacciono a lei, lei che è un tecnico? Ma a me piacciono i tecnici negli esecutivi, cioè io credo che il Parlamento fa la politica, ma gli esecutivi devono fare le cose. Cioè questi tecnici, Monti, le piace? Beh, insomma, sicuramente è gente rispettabile, non so. Staremo a vedere, perché poi si giudicano le persone dalle cose che fanno. Ha aumentato anche il prezzo delle sigarette, non è una grande invenzione aumentare il prezzo? No, non è stato toccato, purtroppo questa è una lacuna, cioè il fatto di lasciare i potentati come intoccabili, quindi di sfiorarli appena con i provvedimenti è qualcosa che non mi piace, però spero che li facciano le cose. Cioè, secondo lei, le lobby delle... a parte che non lo so, pare che sia stato aumentato il prezzo dei tabacchi, Sì, però capisce, cioè se lei porta i tabacchi, li porta ai distributori di benzina, fa esattamente contro la convenzione dell'OMS per il tabacco, che è di restringere il numero dei Ah, lei mi sta dicendo che in realtà Monti ha fatto un favore alle multinazionali del tabacco? Ah, sicuramente. Interessante sta cosa. Sicuramente, con questo provvedimento lui ha ampliato, contrariamente ai dettami di tutti gli organismi internazionali che dicono di ridurre l'esposizione, quindi i punti vendita, lui l'ha aumentati. Dunque ha fatto un favore alle lobby del tabacco. Alle lobby del tabacco. Assolutamente. Senta, e lei invece aveva combattuto. Cosa direbbe professor Sirca, lei che è stato l'inventore di una delle leggi, io ho detto, forse l'unica legge veramente applicata in maniera drastica in Italia subito, che ha prodotto subito degli effetti, cioè la legge contro il fumo nei locali pubblici. Cosa direbbe oggi? Mi dia una definizione del fumatore, uno che ancora fuma oggi, come lo definisce lei? Mi dia una cosa però, insomma, una cosa forte, scioccante, che faccia rendere conto alla gente che ancora fuma, no, dei come lo definirebbe un fumatore oggi? Ma guardi, se vogliamo una definizione scioccante, dobbiamo dire che è una persona che socialmente non ha capito o non riesce a evitare di creare un danno agli altri e a se stesso. Dunque uno, che cos'è? Un criminale? Come lo possiamo definire? No, ma non è un criminale, è una persona che ha uno stile di vita che non riesce a correggere o che non vuole correggere, che fa male agli altri e a sé. Lo so, per un studiamo un aggettivo. Lei sa come funzionano le campagne pubblicitarie, ne ha fatte tante contro il fumo. Ma io non faccio pubblicità, quindi non... Vabbè, però voglio dire, le campagne pubblicitarie erano parte di una grande campagna contro il fumo. Dunque i fumatori sono degli emarginati, come si può dire? No, ma inventiamoci qualcosa. Questo è proprio, non è questo il concetto. Lei non ha mai fumato una sigaretta, professor Sirchia? Sì, da ragazzo ho fumato. Canne? Fino a che età ha fumato? Fino a 35 anni. Fino a 35 anni ha fumato? Anche canne, sono pentito amaramente poi di averlo. Cioè, e purtroppo non ho mai avuto nessuno che mi ha invogliato in maniera con sensibilità, con attenzione, con intelligenza a lasciare il fumo. E uno spinello l'ha mai fumato? No, quello no. Ma secondo lei fa più danni uno spinello oppure una sigaretta? Cioè fumare o fa? Ma insomma siamo lì, cioè, il fumo di tabacco fa un danno terribile. Anche lo spinello fa un danno, un po' diverso, ma lo fa. Ma se uno fuma, che ne so, qualche spinello, non è che fa un gran danno. Fumarsi qualche spinello non è un danno, come essere un fumatore accanito di sigarette. Beh, certamente se è qualche cosa contro un tanto, se è poco contro tanto, è chiaro che il tanto vince sempre. Dunque, farsi qualche spinello è meno pericoloso di fumarsi, che ne so, un pacchetto di sigarette al giorno? No, è pericoloso nel senso che ha anche effetti psichici amici e dà abitudine a sua fazione altrettanto, quindi è comunque però sbagliato. È molto peggio, è molto peggio fumarsi un pacchetto di sigarette intera al giorno. Ma certo, se mi parla di uno spinello contro un pacchetto, è chiaro che uno è più importante dell'altro, è più dannoso dell'altro. Dobbiamo chiudere. Il nuovo presidente di Alleanza di Centro per Italia, ma dice che non si vuole candidare in Parlamento. Siamo qui, caro Parenzo, la Eccoci. Zanzara continua. Meno male. Continua, 800240024. Adesso voglio prendere l'abitudine, prima dei titoli dei TG3, di chiamare in causa qualche ascoltatore, subito, così a bruciapelo. Questo mi pare un'ottima idea. Per esempio, la signora Maria Teresa da Genova. Sì. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera, dottor Parenzo. Prego, signora. Cara Maria Teresa, dalla voce dolcissima. Senta, velocemente... il mio pensiero su una notizia che mi ha lasciato, insomma, adesso si abusa un po' di un termine ci si indigna insomma, ogni tanto. Però io le dico la verità, sono rimasta un po' di sale quando leggo sul quotidiano della mia regione che il signor Celentano vuole un compenso di 300.000 euro. No. Per ogni serata appuntata in cui lui dovrà Perché si indigna lei, signora Maria Teresa? Perché si indigna per questa cosa? Il mercato funziona così. Di fronte a una situazione contingente. Lei dice, siccome l'Italia è nella situazione in cui... Io lo sa che mi sono un po' rotto le scatole di questo argomento. Sembra che siccome siamo in crisi economica tutto si debba fermare. Non bisogna pagare nessuno, ma perché? Tutto si debba fermare, tutti ci vuole il pauperismo, no? Bravo. Erga omnes. Bravo. Ma che cosa vuol dire? Cioè la RAI farà i suoi conti, magari saranno sbagliati, non lo so, ne risponderanno gli amministratori, incassiamo tot dal Festival di Sanremo che peraltro non avrà concorrenza, farà il 30-40% di share, eccetera, eccetera, diamo a Celentano, che peraltro sarà l'unica grossa novità dal punto di vista mediatico, eccetera, non come i cantanti naturalmente, ma come ospiti esterni, diamo 300.000 euro appunto da Celentano. Poi una cosa sono, come dire, le lamentele di Celentano, che non vorrebbe interruzioni, vorrebbe carta bianca. Un'azienda dice, tu ti diamo 300.000 euro, poi decidiamo noi i tempi, i modi, come, quando e perché, o no? Normale anche questo. Dottor Cruciani, posso esprimere ancora una piccola cosa? Lei può dire quello che vuole, cara Maria Teresa. Siccome lui ha anche detto che eventualmente di quelle cifre che lui percepirà vorrà fare, se crede, insomma, con beneficenza, ma non la facciamo noi beneficenza, nel caso che lui con i nostri soldi voglia fare poi questo. Però le do un piccolo consiglio, così molto, come dire, da adesso non so quanti anni abbia lei, perché già non la voglio offendere, però insomma da figlio a mamma, come un figlio ad una madre, si indigni per qualche altra cosa, ecco. Non per queste cose. Ma qui, se proprio si deve indignare. Titoli del TG3, grazie, un abbraccio. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Buste paga ferme mentre l'inflazione corre, divario record tra salari e prezzi, le Eurispes famiglie stremate dalla crisi. Alla Camera fiducia su mille proroghe, voti in leggero calo, martedì il sì definitivo, domani il varo del decreto sulla semplificazione. Bossio cade Montiolo a Lombardia, Berlusconi una mezza cartuccia, la replica non stacco la spina al governo, Formigoni ospite del TG3. Da Di Pietro a Vendola, appello al PD, ricostruiamo il centro-sinistra, nessuno pensi di tagliarci fuori, Bersani, alleanza aperta e moderati. La protesta dei tir nel sud, dalla Campania alla Sicilia, difficile trovare carburante, rischio chiusura scuola, Gioia Tauro. In manette 26 manifestanti dell'ala antagonista dei Notav, a luglio parteciparono agli scontri in Val di Susa, il movimento si ribella. Contestata Luca Laurenti, noto per gli spot in paradiso, tasse per milioni non pagate, nel mirino del fisco anche Tiziano Ferro, la lunga lista dei VIP evasori. Naturalmente il TG3 ha dato per scontato che fossero evasori, naturalmente, non che sia iniziata una procedura di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Beh. Ha già detto la lunga lista dei VIP evasori, e va bene, cioè, va bene. Sì. Per carità, dico. Tutto deve essere controllato, deve essere verificato, ci sono i procedimenti, poi compaiono le liste e uno dice già quelli sono evasori, dunque già il signor Laurenti è già un evasore, magari lo sarà, cioè, magari lo sarà. Guarda, io mi spingo anche molto oltre, caro Cruciani, su questo tema dell'evasione. Ma che c'entra? Io sto dicendo sul titolo del TG3, non sto dicendo che non ci sono VIP evasori, anzi ce ne saranno. Ma io ti dico che qualora fossero confermati evasori, andrebbe istituita come nel Medioevo, come nel 1300, la pietra del vituperio. A Padova c'è il palazzo, c'è un palazzo, il palazzo della ragione, qui dentro c'era una pietra del vituperio dove gli evasori venivano messi in mutande sopra questa pietra e umiliati. Ecco, bisognerebbe tornare a questo. Vabbè, tu sei completamente, completamente fuori di testa. L'evasione fiscale è uno dei più grandi crimini, perché va è bene, concorrenza sleale. Va benissimo, va benissimo. E su questo io vi saluto e sigla, vi ringrazio. Sigla di Vendola, perché voglio ricordare una delle frasi della settimana. Ci penso anche di notte a questa frase qua, per cercare una spiegazione, per cercare una ratio, per cercare una logica. La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. L'isola del Giglio, una perla improvvisamente e improvvidamente scheggiata e oltraggiata, è naufragata penosamente un'idea di modernità, una modernità fatta di mercificazione globale e di selvaggia diseguaglianza, una metropoli in miniatura, galleggiante e commerciale, una nave chiamata Concordia che inciampa in uno scoglio mentre esibisce il proprio gigantismo, mentre comincia la pena dell'affondamento. Si consuma lo scontro terribile e umanissimo tra la viltà e la passione civile. E beh, con parole molto più brevi, Beppe Grillo ha detto più o meno la stessa cosa in un'intervista ad Enrico Lucci, che andrà in onda alle Iene. Giglio, metafora del nostro tempo. Chissà perché poi metafora del nostro tempo, non un semplice incidente navale. Ecco. No, l'incidente di una crociera, insomma, ce ne sono stati tanti, anzi per fortuna pochi, ma ce ne sono stati alcuni nella storia, eccetera. Un incidente frutto di cose, responsabilità che verranno accertate, eccetera. No, la metafora del nostro, io mi fanno impazzire queste cose. Io condannerei, come te, no al pubblico ludibrio, non quelli, non gli evasori, ma quelli che dicono queste stronzate. Beh, sono due cose diverse. Sì, sono due cose diverse, ma secondo me andrebbero proprio, dico, ma che stai, ma perché la metafora del nostro tempo? Per quale motivo al mondo l'affondamento della Concordia deve essere la metafora del nostro tempo? Perché? Spiegatemi perché! Perché? Com'è potuto accadere il disastro dell'isola del Giglio? È la metafora del nostro tempo. Dopo Gogol c'è l'iPad. Non, ma non è che non è vero, no. Non significa nulla. Dopo Gogol c'è l'iPad. Questo nuovo portale così ricco di novità, accessibile anche dal cellulare e dall'iPod. I Monti, io al potere? Ma perché lei mi dice questa cosa? Sono sotto shock per questa sua affermazione. Così Monti a Elisabetta Fiorito, nostra cronista parlamentare. Senti, senti. Quando lei è andato al potere ha detto proprio che c'era un clima. Quando è diventato capo del governo ha detto che c'era una grande contrapposizione. Vede che in questa emozione si sta stemperando. Sono sotto shock per l'espressione che lei ha utilizzato. Poi ride, ma perché? Cosa, ma perché è sotto shock? Ma ha fatto benissimo, è vero, è andato al potere, perché non mica gli ha detto. Non è un delitto, non è andato al potere con un golpe. Cioè, esatto, secondo alcuni, secondo alcuni sì, in realtà. Chi governa un paese è al potere. È al potere, punto. Perché si stizzisce? E che vuoi fare? Sono sotto shock, c'era il lobby tutto stropicciato. Datemi Mughini sulle manifestazioni, vi prego. Poi un editoriale di Parenzo sugli arresti ai Notav. Editoriale di Mughini, no, editoriale di Parenzo, prima Mughini, Mi rompo le balle a vedere ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti, signori, che sventolano il nulla. Ancora, ancora, voglio godere, voglio godere. no, mi rompo le balle a vedere ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti, signori, che sventolano il nulla. Io direi che perché bisogna spendere tante frasi? Perché bisogna spendere editoriali, fiumi d'inchiostro, trasmissioni, eccetera, eccetera, per spiegare la manifestazione, i tir, ne vogliamo questo, ne vogliamo quell'altro. A proposito, il PDL, che ha perso completamente la testa, diciamo la verità, è in qualche suo esponente è riuscito ad appoggiare persino la rivolta dei tir, eh? Certo. È una cosa pazzesca. Ho sentito... E si annoiano, perché stanno lì tutto il giorno, non fare. Dice che devono dire, appoggiamo qualche categoria. Poi la Lega oggi ha detto, Bossi, noi stiamo, no, qualcun altro, la Lega, non so se Bossi... Salvini anche l'ha detto. No, ha detto, noi stiamo con i camionisti. La Lega sta con tutti, con i camionisti, con i farmacisti. Tutti quelli che si oppongono al governo. Sì, ma tutte le micro categorie, qualsiasi tipo di categoria viene appoggiata per cercare consenso. Tutti! Tutti, dalla prima all'ultima. Voi fate l'elenco delle categorie che protestano, non ce n'è una che esponenti del PDL e della Lega non abbiano detto io sto con loro. Sì, ci sono delle ragioni da spiegare, tutto. Perfino i camionisti, per carità, sono rispettabilissimi, eccetera, ma uno non è che deve lisciare il pelo ai tir. A tir selvaggio, vada ai matti. Ma stanno all'opposizione, che vuoi che facciano i poveri leghisti ormai? Con Berlusconi hanno litigato, sono lì da soli e dopo la Padania dovranno identificare una nuova battaglia, no? Una cosa pazzesca. Andrea da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Guardi, io intanto l'intervento, la ragione per la quale avevo chiamato era perché da come parla il nostro ex Berlusca, cose, gli avrebbero potuto dare l'iPod o l'iChat che ripeteva a nastro, secondo me, qualsiasi cosa gli veniva detta proprio. Che vuol dire a nastro? Era preparato, lei dice, era un discorso no, preparato? No, al contrario, non sapeva di quello che dice lui, leggeva un testo e gli avrebbero potuto scrivere. Io qua già ho l'ultima innovazione dell'STS, dell'ATES, del... Sì, però da questo punto di vista, sì, ho capito quello che dice lei, però da questo punto di vista Berlusconi è uno noto per andare a braccio, per parlare a braccio. In questo caso non era troppo a braccio. A braccio, però con quello che gli potevano scrivere l'iChop e lui avrebbe detto perché abbiamo l'iChop che ci connette con tutto il mondo, perché chop di qua, non so, era una battuta, ma si capisce intanto la falsità con la quale interpretava. Però io sono rimasto colpito, se è possibile No, l'intervento di Ventola mi verrebbe proprio da dire che adesso lui ha trovato un fratello in più, noi abbiamo in anno un vigile, un bar in meno, lui c'ha un fratello in più, è una cosa vergognosa. Cioè, scusi, non ho capito. È veramente schifoso, cioè... Con che ha detto di schifoso? È una cosa che abbiamo preso in giro, ma è lo schifo che c'entra, scusi. Lo schifo di quando Ventola da Bari è venuta a Milano ad abbracciare i fratelli, eccetera, e adesso il risultato cos'è? Cos'è il risultato? Delle porcherie che stanno venendo fuori. Ma quali porcherie? O robe simili. I crimini. È l'ultimo vigile urbano, da chi è che è stato fatto fuori? Da un fratello, lei dice i fratelli Rom. Da un fratello di... Allora io quando sento Berlusconi che parla della... Scusi, lei sta, non ho capito. A parte che non c'è... Parla in frasca, sto facendo proprio veramente, era come una partita di tennis. No, scusi Andrea. Ma lei sa che la responsabilità penale e personale... Cosa c'entra Vendola con quello che ha messo sotto il vigile urbano a Milano? Ma lei è completamente fuori di testa. Esattamente, io sono uno di quelli che pensa che quando uno mi arriva da Bari a dire che lui c'ha tutti i fratelli così e i suoi fratelli dimostrano di essere quello che sono. Vabbè. Qua mi trovo un ex presidente del consiglio che a nastro, cioè a sotto dettatura, è partita la pronuncia che potrebbe... sono fuori più di tanto, lo so che si parte di palla in frasca perché magari cominciate con un argomento, però veramente mi ha colpito. Scusi Andrea, dove si trova esattamente? Io sono a Milano, zona ovest, Baggio. Ah, ecco, zona ovest. Baggio, e come no, certo, Baggio, sì, quartiere, quartiere popolare. Se ci dà una via esatta, ci sono due signori vestiti di bianco che guidano... anche l'ambulanza che c'è. Esatto. Parenzo, che l'aspetto sotto casa, vi do anche l'indirizzo. No, a Baggio Parenzo non si presenta, è meglio a Baggio. È meglio così, dice lei, Andrea, no? Ieri sulla 67, allora. No, guardi, ci sono due signori vestiti di bianco... che tireranno a un certo punto fuori una piccola barriera. La appoggeranno sopra, magari la legano. Anche non c'è problema, non si preoccupi, stia tranquillo, passa tutto. Borsa. Siamo qui, 800 24 00 24. Mi rompo le balle a vedere ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti, signori, che sventolano il nulla. Eh beh. Tu sai quanto bene io voglia Mussini. Adesso devi fare la solita cosa politicamente corretta, le manifestazioni, l'espressione della democrazia, le manifestazioni, avanti, dilla questa cosa, avanti, non è tutto così di questa banale, cosa scontata, non avanti, è tutto così banale, ti dico una cosa in più, dimmi, scendono avanti più in piazza oggi, sì, di quando c'era Berlusconi, cioè rendiamoci, allora questa è la riflessione che volevo farti, la riflessione, sì, allora? Perché le proteste di queste ultime settimane, Forconi, sì, quelli del pesce, i pescatori, e fra poco anche gli avvocati, notai, gli avvocati, cioè vuol dire che davvero è un paese, vuol dire che veramente Monti sta aggredendo le posizioni di potere, se bah, tutto un intero paese si sta mobilitando, pezzi di paese stanno mobilitando, quindi non è soltanto una bandierina, cioè lui dice giustamente mi rompo le balle perché quando giro per Roma vedo tutto bloccato, che ha ragione il nostro amico Bughini, per carità, però in democrazia c'è anche questo. Sì, ma nessuno nega che ci sia anche questo, nessuno nega che ci sia anche questo. Vabbè, ma io non ho capito poi se ha detto Bossi oggi mezza calzetta o mezza cartuccia a Berlusconi. Mezza cartuccia mi risulta, però. Mezza cartuccia o mezza calzetta? Spieghiamolo bene, no? Questo è importante, fondamentale. Andiamo a provincia di Bari. Luigi, buonasera. Buonasera. Vada. È un piacere parlare con voi. Comunque, quello che voglio dire, io ascolto sempre la vostra trasmissione, mi diverto moltissimo, però ascoltare il nulla mi riempie anche un pochettino di rabbia, insomma, questo è il discorso. Le manifestazioni, Mughini è simpaticissimo nelle sue uscite, tutto fa spettacolo, tutto fa audience e così. Le manifestazioni chiaramente sono delle cose deleterie, però il problema è questo, che voi, lo so che la vostra trasmissione è una trasmissione giocosa, è una, è una trasmissione che vuole un pochettino solazzare quante persone più possibile, ma il discorso solazzare è questo qua. Qual è il discorso? Sì, solazzare, il discorso è semplicemente questo, che voi, lei, il signor Cruciani e il signor Parenzo, sottovalutate un pochettino quello che è veramente il problema dell'Italia. Ma che sottovalutiamo? Cosa sottovalutiamo? Non è che sottovalutiamo, prendete in giro, siete superficiali nel considerare le cose, in quanto voi siete dei privilegiati. Avete un lavoro, state in una determinata situazione e vi permettete anche di fare dell'ironia offendendo tutta quella categoria di persone che stanno un pochettino soffrendo. Quindi quando si parla di manifestazioni io sono d'accordo che non si devono fare, ma è il modo di conduzione che avete voi, è un modo un pochettino irriguardoso nei confronti della gente che sta e meno male. No, è meno male che siamo irriguardosi o comunque che siamo un po' scorretti, altrimenti pensi che due palle se fossimo le incontrati. Due palle, scusatemi il termine, io non uso questi termini perché voi usate dei termini abbastanza scurrili, perché mi scusi signor Cruciani, inizialmente io pensavo, quindi visto che siamo qua, io pensavo lei conduceva da solo, ma da solo un coglione solo. Un coglione solo era non, quindi con Parenzo avete fatto la coppia. Semplicemente questo. Arrivederci. Bene. Mi rompo le balle a vedere ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti, signori, che sventolano il nulla. Silvano dalla provincia di Bergamo, buonasera. Sì, buonasera, signor Cruciani. Vada. Ai vostri ascoltatori. Allora, niente, io sono un autotrasportatore. Ecco, niente, lei prima ha detto che siamo una micro categoria, a quanto pare non. Ma io non ho detto, io ho grande affetto per gli autotrasportatori, che c'entra? Io non ho detto micro categoria, ho detto che i partiti, in particolare quelli di centrodestra, adesso che non sanno più che pesci prendere, cercano di attaccarsi ad ogni protesta dicendo che bisogna capire le ragioni di qui, su, di là, anche paradossalmente anche di quelli che bloccano il paese, come voi purtroppo, non so se lei ha bloccato il paese, ma di quelli che hanno bloccato il paese e continuano a bloccarlo ancora in alcune regioni. Comunque nel nord grandi posti di blocco non si sono stati visti. Comunque io volevo ribadire alcune cose. Che voleva dire? Purtroppo il nostro settore è arrivato proprio, abbiamo toccato il fondo del barile. Sì, questo lo dicono io l'ho sempre sentita questa tutti cosa, lo sa adesso per carità. Sì, no, ma l'ho sempre sentita da quando faccio il giornalista, ho sempre sentito. Certo. Per carità, poi sarà vero, ci sono delle ragioni di fondo, ho sempre sentito quasi tutte le categorie, e in particolare quelle degli autotrasportatori che amo, che adoro, che abbraccio fortissimo, i tantissimi autotrasportatori che ci stanno ascoltando, dire siamo al fondo del barile. Sì, siamo in una condizione pazzesca, siamo in una condizione penosa, non arriviamo alla fine del mese. paese. Vero, sì, sono, d'accordo, però Silvano, ma di che vogliamo parlare? Cioè, di che cosa? Niente. Di problemi concreti? Io ho passato alcune cose sono state fatte, pare. Alcune cose sulla benzina. Non bastano. Vabbè, che vogliamo fare? Che vi regaliamo i soldi? Che vogliamo fare, Silvano? Io ho passato adesso un'ora fa il tunnel del Freus. Sa qua per 12 chilometri quanto ci fanno pagare? 300 euro. Ho capito, ma Silvano, io che cosa le posso fare? Ma sì, no, lei non può fare niente. Ho capito, ma noi abbiamo delle cose che bisogna, delle spese, eccetera, eccetera. Ho capito, Silvano, per carità. Pagamenti. Poi dopo tanti dei nostri problemi sono iniziati quando hanno messo nella Comunità Europea quei paesi dell'est. Sì, e allora sì, praticamente avendo la mano d'opera a costi veramente bassi. Poi oggi c'è tra l'altro sì, ma la concorrenza, a parte io dico sempre viva la concorrenza, quello che vogliamo, però sì. Tra l'altro è partito uno sciopero di 24 ore dei trasporti pubblici contro il governo Monti ancora. Io veramente non ne posso più di queste cose, non se ne può più, basta. Antonio dalla provincia di Varese, buonasera. Buonasera Cruciani. Vada. Volevo dire una cosa in merito al Giglio, alla nave di crociera. Sì, Giglio, che succede al Giglio? Non è che succede, lo sa meglio di me. No, che succede comunque, di nuovo? Ah, di nuovo succede nulla. Io volevo rispondere al fatto che lei della metafora, che non è una metafora, assolutamente non sarà una metafora, ma sicuramente sarà uno specchio dell'Italia, perché vedere qualcosa che succede e che succede sempre, la capitania del porto non ha mai detto nulla, non gliene è fregato mai. Ma su che cosa? Sugli inchini? Sugli inchini? Sugli inchini. Sì, scusi, guardi, io le voglio dire una cosa politicamente scorretta. Io difendo questa storia degli inchini. Immaginiamo, la difenda pure. No, la difendo alla grandissima, non alla grande, alla grandissima, Antonio, perché fino adesso. Guardi, io non me ne intendo di navigazione, quindi non so se difenderla o non difenderla. No, ma io difendo. Se però un inchino provoca quello che ha fatto. Ma che c'entra? Non mi sento di dirlo. Sì, ma bisogna dire le cose come stanno. Bisogna dire le cose come stanno. È evidente che siccome nessuno, se non l'interna corporis all'interno delle aziende, della capitaneria di porto, eccetera, ha mai messo in discussione questa pratica, significa che è una pratica abbastanza diffusa, che si fa certo con il consenso delle compagnie e che se fatta in maniera corretta, cioè se fatta con un certo senno, cioè se uno sa guidare una nave e non la fa venire contro uno scoglio, è evidente che è una cosa che non provoca alcun tipo di problema. Ma com'è che non provoca? Se una cosa è illegale. Ma quale illegale? Ma chi l'ha detto? Ma che dici? Ma che illegale? Ma quale illegale? E se la fai, ne paghi. Ma che illegale? Tu sei fissato con questa cosa? Non c'è nulla di illegale. Quale illegale? Perché sono un legale. Sono fino a verso una questione di principio. Ma non c'entra niente. Vabbè, ma tu sei. Non hai capito quello che voglio dire. Non hai capito. L'ho talmente capito che è una follia. Perché se uno di. Ma scusami, ma avrà anche una logica, no? Dice non è tollerato. Ma non è tollerato perché c'è una legge che lo vieta. Non c'è una legge che vieta di andare vicino a un'isola. Se devi navigare a tot miglia dalla costa. Ma quello è un altro discorso. Quello e è un altro discorso. Invece per fare l'inchino, cioè il saluto, non rispetti una legge marittima e però è tollerata, adesso che si è sempre fatta. Ma non si parla di violazione di violazione di norme marittime, oddio, eccetera. Parli di consuetudine, vuol dire io che parlo di una consuetudine che è assolutamente normale, che io non mi sento di condannare, perché bisogna anche saper credo che finora non è successo nulla per l'inchino, eppure ci saranno stati migliaia di inchini al giorno in tutto il Mediterraneo. Non è che una cosa non si fa, ma però è consuetudine. Ma io allora non sto difendendo il comandante Schettino, me ne frego, non lo conosco, non mi interessa. Ma io contesto il principio che invece questo vabbè, sì è molto e allora, italiano. Allora come al solito in Italia sì adesso si italiano. Fa una legge. Siccome nessuno ha mai messo la cintura ed è consuetudine che nessuno metta mai la cintura quando è in macchina. Va bene, allora. E allora vabbè, l'hanno fatto tutti, se vai pianino. Ma non è un crimine l'inchino, non è un crimine, capito o no che non è un crimine? Ma si può fare. Ma secondo la legge si potrà fare. E invece no. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma questo è il punto. Perché non pare che quella pratica fosse tollerata ma non lecita. Ma non lecita? Ma chi l'ha detto la legge? Non credo che si violi la legge facendo l'inchino. Dici una cosa completamente fuori di testa. Come no? Ci sono tot miglia che tu devi. Io non so neanche nuotare. Tu riduci tutto sempre alla violazione della legge. Per te c'è una sola cosa. Le cose. Sì, forse quello ha violato questo o quest'altro. Perché lo Stato di diritto si fonda sul rispetto della legalità. Bene, 800-24. È consuetudine che uno in pubblico faccia a tavola Rutti. Bene. Vabbè, consuetudine, no, beh, non Rutti, è bello. I Rutti, appunto, ma questa è una cosa diversa dalla legge, perché ruttando non si commette un crimine. Però lui l'ha sempre fatto. Stai parlando, appunto, mi stai andando incontro, perché il rutto non è un crimine. Bene, con noi Rocco Buttiglione, buonasera. Buonasera. Come sta, professore? Facciamo un inchino, professore. Cavo. facciamo un inchino anche a lei. Facciamo un inchino. Mi pare eccessivo. No. Sì, vabbè, noi facciamo sempre inchini, poi naturalmente diciamo la nostra. Cioè, ma ha sentito cosa hanno combinato i signori di Der Spiegel? Come si pronuncia Der Spiegel? Più o meno come lo pronuncierei. Come ho pronunciato io, eh? Der Spiegel. Der Spiegel. Qual è secondo lei la Weltanschauung del Der Spiegel? No, ma che c'entra adesso la Weltanschauung? Sì, Weltanschauung. Ma no. Ha sentito cosa hanno scritto, no? Ha letto qualcosa? Non vorrei offendere, ma le pare che i giornalisti non sono tenuti ad avere una Weltanschauung. Ecco, giusto, insomma, risponda così a Parenzo. Senta un attimo, professor Buttiglione, ma ha sentito cosa hanno scritto? Ha letto Der Spiegel, no? Sì. Sull'Italia, cosa hanno scritto? Il tipico, no? Vergognoso, no? L'emblema dell'Italia... il comandante Schettino, che dice lei che è di cultura germanofila? Io sono di cultura germanofila. Più o meno conosce il tedesco, ha abitato in Germania, sa di che cosa stiamo parlando. Io conosco il tedesco, ma conosco anche l'inglese, conosco il francese. Vabbè, allora odia la Germania lei, questo volevo dire, non sopporta la Germania. Io amo la cultura tedesca. Ah, ecco, appunto. Tedeschi, guardi. Ci sono alcuni vecchi stereotipi che ovviamente non corrispondono alla realtà. Noi abbiamo lo stereotipo del tedesco che è cattivo, che ci vuole spremere i nostri soldi, che ci condanna alla fame. E loro hanno lo stereotipo dell'italiano allegro, che mangia, che spande, che non osserva le regole e anche magari che è un po' vigliacco e porta le navi a sbattere e dopo... Loro dicono con un comandante inglese o non so chi ha scritto Der Spiegel, questo qua non sarebbe mai accaduto. Ve lo immaginate voi un comandante inglese o un comandante che ne so tedesco? Anche tedesco forse no. Sì, vabbè, le stronzate le possono scrivere tutti. Si va a cercare bene se ne trovano di comandanti inglesi e tedeschi e di altri paesi, perché gente la quale messa sotto pressione non è alla testa della situazione se ne trova dappertutto. È pieno il mondo, ma diciamo. Potremmo anche fare il nome di tanti capitani italiani che sono andati a fondo con la loro nave. Uno era anche un mio parente. Addirittura? Sì. Ma quando? Durante la guerra? Nella seconda guerra mondiale, ecco. Cioè, ma è stato affondato da un siluro, da un missile? Era il comandante Perrone, era in uno sommergibile ed è andato a fondo per dopo aver salvato gli uomini del suo equipaggio. Vabbè, insomma, il Buttiglione ha un eroe di guerra tra i suoi parenti. Aneddotica. Possiamo dire quindi, professore, usando le espressioni... No, ma non sono l'unico, eh. No, certo, ce ne sono tanti, tantissimi. Ma allora forse ogni famiglia italiana, ma tante famiglie italiane hanno una storia del genere. Possiamo dire quindi, usando... rispetto per l'Italia e per i comandanti italiani, anche a Der Spiegel. Rispetto anche per Schettino? Rispetto per i comandanti italiani. Schettino... s'indagherà di quello che ha fatto, l'immagine che esce dai giornali è devastante, però... ha diritto anche lui a un processo. Ma non è stato mostrificato in questi giorni? Anche... Non lo so, per questo dico ha diritto anche lui a un processo. Un giudizio definitivo si farà quando saranno state accertate come sono andate veramente le cose. Che dici, Parenzo? Che volevi dire? No, dicevo che usando l'espressione tedesca possiamo dire che questi del Der Spiegel hanno pestato una scheisse pazzesca. Possiamo usare questa espressione, no? Non è molto elegante. No, non lo utilizziamo. No, lo so, non è elegante. Se la vuoi usare, la usi. Non la utilizziamo. Questa stampa estera, alle volte, esagera un po'. Esagerava forse quando c'era Berlusconi, esagerano oggi. Ma sì, la stampa. Sì, perché, veda, viene troppo mitizzata la stampa dobbiamo estera. Dobbiamo dire una cosa. Ogni tanto gli italiani trovano qualcuno che conferma i pregiudizi dei tedeschi contro gli italiani. E questo è doloroso. Cioè, dunque, secondo lei Schettino conferma questi pregiudizi? Almeno giudicando da quello che dicono i giornali, che non è necessariamente la verità. Però l'immagine che è uscita è un'immagine devastante, questo dobbiamo riconoscerlo. Ci sono anche tanti italiani che invece sono esattamente i contrari. Beh, però è interessante questa cosa. Senta, ma io le voglio ricordare però una sua frase che pronunciò qui alla Zanzara qualche tempo fa a proposito di Berlusconi, professor Buttiglione. Segnate le mie frasi. Beh, come no? Noi segniamo le frasi di tutti. Noi segniamo le frasi di tutti. L'archivio della Zanzara. L'archivio della Zanzara che non perde mai i colpi. Allora, e che... non è un segno di stima particolare verso di me, è una specie di pratica di polizia. No, l'inchino l'abbiamo già fatto. L'inchino l'abbiamo già fatto all'inizio. Un archivio per... Noi facciamo un archivio di tutti. Abbiamo un archivio, il famoso archivio della Zanzara. Lei disse... come quello della P2. Come quello della Stasi, direi. La Stasi è meglio, mi diverte di più. La Stasi mi diverte di più. Lei disse, Berlusconi vale 300 punti di spread. Sentiamo. 500 punti di differenza fra noi e i tedeschi, forse 200 sono giustificati dalla situazione oggettiva. 300 sono mancanza di fiducia politica. Questo governo non ha la fiducia dei mercati, non ha la fiducia degli alleati, ma non lo vede. Professor Buttiglione, 300 punti, è andato un po' diversamente, per carità lo spread è leggermente sceso, magari c'è un po' più di fiducia, però poi si balla ancora, 300 punti lei disse, mi dica chiaramente, ho detto un'esagerazione in quel momento, volevo far cadere Berlusconi, ho detto un'esagerazione, ho detto una stronzata. Ho diciamo detto quello che pensavo allora, vuole sapere quello che penso adesso? Sì. Quello che penso adesso è che Monti ha la fiducia degli alleati e dei mercati. E i tassi di interesse sono scesi in modo drammatico a breve, a un anno sono dimezzati, a due anni sono dimezzati. Dunque? Abbiamo credito. Non sono scesi altrettanto invece a 10 anni, quel 500 era riferito allo spread a 10 anni. Rispetto ad allora noi abbiamo recuperato un 150 punti, grosso modo, la metà di quelli che dicevo io. Ma, cioè Berlusconi vale 150? No, perché poi lo stereotipo di Berlusconi si è calato sullo stereotipo dell'italiano. Cioè? Però noi dobbiamo, sì, perché Berlusconi è sembrato che confermasse gli stereotipi che avevano contro gli italiani. Pure allora con Berlusconi è come Schettino? Non lo so. Questo no, come stereotipo, dice. Come stereotipo. Ha confermato stereotipi come li ha confermati Schettino. E tolto lo Berlusconi, lo stereotipo rimane indebolito. E va abbattuto. Però cioè, lei vuole dire, scusi un attimo, no, però non ho capito bene il passaggio da. Lei dice che se Berlusconi fosse rimasto, noi saremmo falliti. Può darsi, mi sembra addirittura probabile. Quello che le dico però è che adesso cos'è che ci chiedono i mercati? I mercati dicono entro un anno, se vediamo soldi per un anno ci fidiamo e quindi facciamo pagare poco. Vabbè. Se vediamo per 10 anni non ci fidiamo perché non sappiamo chi viene dopo Monti. E noi dobbiamo dire, e il Parlamento italiano ieri ha detto, la linea di Monti, la linea della serietà, e della sobrietà e del rigore, non è una cosa provvisoria, durerà anche dopo il governo Monti. Tutte le forze politiche italiane responsabili l'assumono come adesso, propria. Adesso parliamo di Monti. Però i 300 erano un'esagerazione. Io penso che adesso cadranno anche gli altri, i 150. Ah, dunque lei conferma alla fine Berlusconi quei 300, no, 300. No, è stato ingeneroso attribuire tutta la colpa a Berlusconi. Anche da parte sua allora. L'ho detto anche in Parlamento, quindi non ho difficoltà a ripetere. Anche da parte sua? Anche da parte mia ce l'ho detto. Dunque io. Quando disse vale 300 punti di spread disse una cosa esagerata. Apposta per far cadere Berlusconi. È stato ingeneroso attribuire tutta la colpa di questi. Ma è ingeneroso, anche Bossi allora ha detto oggi una mezza calzetta, una mezza cartuccia. Che sta succedendo lì, Buttiglione? Una mezza cartuccia, una mezza calzetta. Stanno nei guai. Perché il Popolo delle Libertà non può contemporaneamente, nello stesso giorno, non può votare una mozione come quella che ha votato insieme con noi, che lo vincola ad una politica di serietà e di rigore, e contemporaneamente tenere in piedi l'alleanza con la Lega che vuole stampare moneta e distribuirla a tutti. Quindi ha ragione Bossi. Dal suo punto di vista ha ragione Bossi. Berlusconi ha cominciato a comportarsi da persona seria e quindi non può più stare con Bossi. Non può più stare, ma lei è sicuro non può più stare con Bossi? Io lo auspico, non posso garantire per nessuno, faccio fatica a garantire per me stesso, però il dato di oggi è questo, Berlusconi ha fatto cose giuste e per questo Bossi lo attacca. Beh, è ridiventato berlusconiano o Buttiglione, questa è la vera notizia. Buttiglione è ridiventato. Non troppo lontano, non vado troppo lontano. Beh, un po' sì. Berlusconi si è redento. Sta facendo cose giuste. Non sono io quello che può giudicare della redenzione degli altri. Dico che oggi, ieri e anche oggi, ha votato la fiducia al governo Monti. E continua a dare fiducia, continua ad appoggiarlo. E ieri ha votato, o fatto votare le sue benissimo. In aula, non mi ricordo se c'era. Dunque Berlusconi si è dal suo punto di vista si è redento, su. Fatto dei passi in una direzione che io considero giusta. In una direzione di redenzione. In un modo meno enfatico. Ma noi vogliamo l'enfasi un po'. Noi vogliamo, a noi non piace. No, è quello che i tedeschi non amano negli italiani. Senta, vabbè, ci sentiamo dopo la pubblicità ancora per qualche minuto con Rocco Buttiglione. Lei è ancora presidente dell'UDC, Buttiglione? Sempre fedeli come i carabinieri. Che vogliamo risentire? Mughini, prima di tornare su Buttiglione. Mughini splendido di stamattina, Agorà, sentiamo. Mi rompo le balle a vedere ogni 5 minuti, signori che sventolano il nulla. Sull'erba. Io godo, mi fa godere. Signori che sventolano il nulla nelle manifestazioni, mi fa godere. Questa cosa mi fa godere. Lasciami godere. Se ti piace così, lasciami godere. Il professor Buttiglione, non penso che. Professore, senta, Monti ha un futuro politico alla fine della legislatura? Non lo so, dipende da lui. Repubblica prima o poi. Eccolo qui. Dunque, lo vede perfetto per quel ruolo. Poi, naturalmente, è tutto ancora da vedere, da giocare, le elezioni, le cose, eccetera. Però ha il ruolo adatto, ha il physique du rôle da Presidente della Repubblica. Non ho avanzato una candidatura, perché è ovvio che se si avanza una candidatura adesso la si brucia. Però soltanto che un uomo che farebbe bene in un ruolo così. E il signor Passera ha un futuro politico? Anche quello dipenderà da lui. Vabbè, adesso non rispondo a tutto così, perché sennò è inutile. Però voglio dire, io penso che mettiamolo in un altro modo: la politica non può tornare a quella di prima. Dunque? Non si può tornare semplicemente come se niente fosse successo, né agli uomini di prima né anche ai partiti di prima. Io credo che ci vuole una nuova politica. La politica di prima era una politica alla quale sai perché abbiamo il governo dei competenti? Dei competenti. Perché prima abbiamo avuto il governo degli incompetenti. Cioè, perché prima la politica ha pensato di potersene fregare delle competenze tecniche. Anche lei? Deve usarle. No, io non ero tra i leader più. Vabbè, è stato al governo un sacco di anni, Buttiglione. Sono stato, ho cercato di governare in modo competente. Qualcuno dice persino che un po' ci sono riuscito. Ah, lei è tra i competenti, erano governi di incompetenti, lei è uno dei pochi che era competente. No, dico questo. Questo ha detto. Mi lasci spiegare a me quello che ho detto. Quello che dico. C'è stata l'idea che la politica è sovrana anche sopra la logica, sopra la matematica, e invece non è così. La politica non è sovrana sopra la logica, perché le cose vadano bene, 2+2 devono fare sempre 4. Abbiamo il governo dei tecnici perché la politica si era dimenticata di questo e aveva avuto un momento di hubris. Dove come di hubris, qui si parla come hubris vuol dire di superbia, la tracotanza, arroganza. Allora, questo non è un giudizio sulle persone dei politici, è un giudizio perché possono essere competentissimi personalmente, ma poi se si lasciano prendere dalla vertigine del potere ed immaginano che tutto è a loro possibile, finiscono col dimenticarsi le regole banali della sobrietà. Allora, Bossi e la mezza cartuccia, abbiamo l'audio. Abemus papam, caro Parenzo e caro professor Buttiglione. Abemus audium, la mezza cartuccia. Devo dire che, insomma, Buttiglione se la ricorda bene quella stagione, la stagione del Berlusconi mafioso, del Berlusconi, no, la mafia d'Arcore, era un Bossi diverso, certamente non i Bossi di oggi, però la mezza cartuccia non vale quel tipo di insulti, alcuni dicono in realtà se ne dicono di tutti i colori, però poi alla fine l'alleanza è inevitabile. Sentiamo la mezza cartuccia. Berlusconi è un po' la mezza cartuccia, c'è tutto il paese che vuole strozzare Monti, e lui ha paura di farlo fuori. Tutto il paese vuole strozzare Monti, più o meno questo si capisce. Parenzo, tu che sei un esegeta di Bossi, che lo studi per le tue imitazioni. Effettivamente l'ho ascoltato, si capiva poco l'ultima parte, tutto il paese si sentiva mezza cartuccia. Che ha detto? Fai una traduzione tu un po' più comprensibile, sempre nel tuo rimandamelo un attimo, perché no, fai la traduzione tu da Bossi. Vabbè, sì, te lo rimando. Va. Berlusconi è un po' la mezza cartuccia, c'è tutto il paese che vuole strozzare Monti e lui ha paura di farlo fuori, capito? È la mezza cartuccia. Tutto il paese vuole strozzare Monti, perché poi ripete anche lui, ha paura di farlo fuori. Com'è che è questa cosa? Ha paura di farlo fuori, paura. E devi ripeterlo però due volte, perché lui spesso ripete le cose. Ripete perché vuole riaffermare il concetto. Però diciamo la verità, professore, il rinnovamento passa secondo la sua visione dal fatto che Bossi e Berlusconi si levano dalle scatole, diciamo la verità. O no? Abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di gente nuova, abbiamo bisogno anche di partiti. Io penso che, non so se i partiti di domani saranno i partiti di adesso. Anche Casini deve cambiare. Dobbiamo rinnovarci tutti. Tutti? In modi ma quindi diversi, anche lei non ci sarà più? Com'è? No, dico, quindi anche lei non ci sarà più in politica? È possibile. Sto pensando di lasciare. No. Beh, no. No, non è questo. Figuriamoci, dobbiamo, adesso che il terzo polo dobbiamo, è in auge. Dobbiamo creare realtà nuove. Realtà se per creare queste realtà nuove io dovessi lasciare, lascio domani. Qual è il problema? Senta, ma è vero, lei sa come quanto prende da vicepresidente della Camera come indennità? Aspetti, guardi, posso dirlo all'incirca, saranno 3.000 euro. 3.000 euro netti? Sì, netti. Netti, sì, netti. Penso di sì. Cioè lei semplicemente, no, ma non dico per tutti quelli che sono stati vicepresidenti della Camera, cioè tu solamente perché uno è vicepresidente della Camera piglia, oltre allo stipendio da parlamentare normale, 3.000 euro netti. Sì. E perché? Che funzioni in più ci sono? Immagino che riprenda perché fa un oltre il lavoro del normale parlamentare un altro lavoro alquanto impegnativo. Cioè secondo lei è giusto che uno prenda 3.000 euro in più? Guardi, no, mi dica la verità, se è giusto che uno prenda 3.000 euro in più oltre allo stipendio da parlamentare per fare vicepresidente della Camera? A me pare una cosa un po' strana, cioè uno come parlamentare ha una funzione che in questo caso è vicepresidente della Camera, per fare questo prende 3.000 euro in più al mese, che mi sembra una cosa assolutamente, tant'è che vogliono decurtare questa cosa, ha letto, no? Decurtiamola, qual è il problema? Questo è un momento in cui i parlamentari non devono difendere, non solo non devono difendere i loro privilegi, ma neanche i loro diritti, per cui se si deve decurtare le curtate. No, capito, ma le pare giusto, le pare giusto secondo lei che uno prenda 3.000 euro in più per fare vicepresidente della Camera? Guardi, io quando facevo un altro mestiere guadagnavo molti più soldi, penso di valere più dei soldi che mi danno. Poi dopo, se in un momento in cui chiediamo sacrifici al Paese, per dare il buon esempio, dobbiamo dimezzare gli stipendi, togliere le indennità del Presidente della Camera, togliamole. Scusate, ma lei ha detto valgo molto di più dello stipendio che mi danno, che vuol dire? Che quando facevo un altro mestiere guadagnavo molto di più. Cioè tipo quando faceva il professore? Sì, perché veda, i professori universitari in Italia sono pagati male, ma all'estero sono pagati bene. Quelli bravi, quelli che sono lì. Lì c'è ma una molto carriera diversa che da noi, se tu sei top vuol dire top, tra quelli top, più bravi. Siamo al top. Appunto. Quando uno è al top guadagna un sacco di soldi, dice come professore universitario? Molto più che i professori universitari italiani. Molto c'è un professore come lei che ha insegnato nell'Liechtenstein, se non ricordo male, anche, no? Anche ma quanto guadagnava anche prima? Prima, poi prima quando? Prima... Guardi, adesso non mi ricordo. Quello che posso dirle è che l'ultima volta che ho fatto un seminario, la mia tariffa era di 5.000 euro al giorno. Ah, dollari, non c'era l'euro. Cioè lei per partecipare a un seminario prendeva 5.000 dollari, diciamo, per un giorno, come parcella, sì. Naturalmente. E quanti ne faceva? E per parlare di cosa? Per parlare di filosofia. Di filosofia, beh, certo. Che meraviglia, una cosa meraviglia, una cosa però pagare un filosofo che dovevo pagare di certo, di Nicol Minetti, di Nicol Minetti. Ecco, non avere la competenza necessaria. No, su Nicol Minetti. Ottica di Nicol Minetti. Su Nicol Minetti credo che, perché ha detto con tutto rispetto, lei non ha una competenza per parlare, quella ce l'aveva il professor Berlusconi. Non riuscirei a riempire un'ora e trenta di esposizione su questo tema. No, però questo è curioso. Dunque, io guadagnavo anche 5.000 euro al giorno per fare un seminario quando ero professore, cosa che adesso non posso più fare. E dunque io valgo molto di più, come il mio peso specifico quando ero professore vale molto di più di quando facevo il parlamentare. E vabbè, questo è bellissimo. È un dato di fatto, come dire. Non è un motivo per non tagliare il compenso dei vicepresidenti, tagliamolo. No, la vicepresidente, lei manco lo sapeva che prendeva 3.000 euro in più, probabilmente. No, perché il professor Buttiglione vive un po' da questo punto di vista e quasi da ammirare, perché quasi la busta paga da parlamentare quasi non la conosce, non la guarda, è vero professore? Po' è vero. Un po' è vero, sì. Non proprio fino a livello che dice lei. Beh, come tutte le persone eleganti. Dettaglio, ma grosso modo lo so. Non parla mai perché sta avendo una famiglia. Sì, certo. Scusi un attimo, quanto tempo dedica a fare il vicepresidente però? Mi dica la verità, al mese, quanto tempo dedica? Un'ora, due ore al massimo? Al mese? No. Beh, sì. Mezz'ora? Come si prenda soltanto, solo come ore di presidenza in aula. Sì, perché c'è una cosa che voi non sapete. Non sappiamo, ce lo dica lei, sì. Voi pensate che i parlamentari lavorino poco, no, che lavorino due giorni alla settimana, no? No, chi l'ha detto? Qualcuno. Ma insomma, qualcuno lavora più di più, qualcuno lavora meno, come al solito. Gaglione lavora molto poco, signor Gaglione. Sono una serie di attività della Camera che i parlamentari disertano, per esempio le discussioni generali, i presidenti ci devono essere, e quindi però però mi dica la verità, quante ore dedica? Quante ore dedica alla vicepresidente della Camera? Al mese, al mese? Tre ore. Guardi, io le dico quante ore ci ho messo oggi. Avrò fatto 5 ore oggi, sì. Sì, però da vicepresidente, sì. quanto dedica nel lavoro di vicepresidente? Poco, su. No, io le ho detto, oggi sono 6 ore. Ieri non lo so, ma sei ore come deputato, 6 ore da deputato normale. No, da presidente. Che ne so, 15, 20 ore al mese, una cosa del genere. Al mese no. Di più. Non ne so fare i calcoli sul mese. No, per carità, no, vabbè. Comunque. Posso dire che oggi sono state 5 o 6. Comunque, secondo lei è giustificato il fatto che uno da vicepresidente prenda un'indennità in più, ha una responsabilità in più e dunque prende un'indennità in più. Poi possiamo anche tagliarla, però è giusto possiamo che prenda. Possiamo anche toglierla quanto questo. Adesso non faccia. È un mio diritto, giustamente la prendo. Io la toglierei questa cosa da vicepresidente. La toglierei, vicepresidente, perché vabbè, comunque. Senta, una domanda sul mondo gay non manca mai quando è ospite. L'ultima cosa che possono fare i parlamentari è mettersi a difendere se stessi, neanche quando hanno ragione, perché io ho attribuito cose che erano totalmente false, come poi il risultato dalle ricerche fatte. No, ma veramente con tutto ciò non è un momento in cui stare molto attenti a mettere in evidenza che questo mestiere non si fa per i soldi. Però scusi, professor Buttiglione, ma la commissione giovanili ha detto delle cose corrette, dell'Istat, dunque è inattaccabile. 16.000 euro, comprese tutte le cose degli assistenti e tutto, non era una cifra sbagliata. Alcuni No, ma sì, è una cifra sbagliata e non è la cifra di Giovannini. Come non è la cifra di Giovannini? Certo che è la cifra di Giovannini. Lo ha detto pubblicamente, l'ho detto pubblicamente. Le cifre di Giovannini le trova sul sito della Camera, tra l'altro, le più importanti non sono quelle. Che è 5.000? La storia dei 5.000? Guardi, ma non è 5.000, poi ci sono il tutto è 16.000, poi ci sono le spese per fare il deputato. Guardi, lei fa il giornalista? Sì, più o meno. Allora, quando va in trasferta all'estero, o anche in Italia, in un'altra città, le pagano l'albergo? Sì, più o meno così. Sì. Le pagano il ristorante? Sì. Se la cava con 300 euro al giorno? Sì, me la cavo, sì. È più o meno quello che prendono i parlamentari per la trasferta a Roma. Ma non è la stessa cosa, però. No. Non è la stessa cosa. Bene, chiudiamo con il professor Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC, ai nostri microfoni. Che c'è, professore? No, io ho una cosa che mi angoscia da mesi, che gliela voglio chiedere. Che ti angoscia da mesi? Che riguarda proprio l'UDC, perché lui è il presidente dell'UDC. Sì. Cesa è il segretario dell'UDC. E Casini, che cos'è nell'UDC, scusi? Se lei è presidente, quell'altro è segretario? Il? Presidente del gruppo parlamentare. Come? Solo il presidente? È il capogruppo, non è più... è solo capogruppo? Appare sempre lui, povero Cesa. È anche l'uomo che noi abbiamo scelto come candidato alle elezioni. Ma il segretario è Cesa, però. Ma quelli sono ruoli così formali, non contano. No, perché formali, povero Cesa? Perché parli così di Cesa? Ruoli formali. No, vabbè, ma che vergognati. Che vuoi che conti? Come, sì. Il pur rispettabile signor Cesa. Sì. Ma no, conta tantissimo. lei dice a voglia come se non conta. No, Cesa. Dai, non conta nulla. Su. Conta. Ma chi decide tutto alla fine è Casini. Chi decide di più, Casini o Cesa? Ecco. In un partito democratico si decide assieme. Vabbè, il leader che abbiamo scelto è stato Casini. Cesa, io l'altro giorno ero in metropolitana a Milano e in molti mi hanno detto: ma che fine ha fatto Cesa? Dico: non lo so, adesso per la sede Buttiglione glielo chiedo. E infatti non vi preoccupate che è sempre lì. È sempre lì. A fare il segretario di un partito dove però appare sempre Casini. Ma chi è più potente? Ecco. Cesa che è un uomo di potere oscuro, il potere in senso, vuol dire, non dispregiare. No. Siete fuori strada. Come siamo? La nostra forza è che siamo uniti. Il leader che abbiamo scelto e presentato agli elettori è Casini, è chiaro che lui rappresenta tutti. Adesso no, non però ci faccio pipone, Casini, non voglio insistere, ma Casini, che è capogruppo dell'UDC alla Camera, è come Cicchitto praticamente. Esattamente, è come Cicchitto. Questo è il punto. Ci sono ruoli formali e poi ci sono i dati reali. Il dato reale è che... Qual è il dato reale? Detto così mi fa emozionare. Il dato reale. Il dato reale è che è l'uomo che abbiamo scelto come candidato presidente del Casini. Consiglio. Abbiamo fatto le elezioni portando Casini come nostro candidato presidente del Consiglio. Senta, ma nel suo schema, nello schema Buttiglione, diciamo, Monti fa il presidente della Repubblica e Casini il presidente del Consiglio. Sarebbe il massimo, diciamo la verità. Lei godrebbe da morire, Buttiglione. Se finisse così nel 2013, per lei sarebbe il massimo. Non nascondo che mi piacerebbe. Non è detto, noi facciamo politica non per, prima di tutto, per mettere uno a fare il presidente. Vabbè, ma questo lo sappiamo, questo qua lo sappiamo. Poi chi è più vicino alla rete ed è nelle condizioni migliori per fare gol, gli passiamo la palla. Però mi dica la verità, se finisse così per lei sarebbe il massimo della vita, diciamo, sarebbe proprio una goduria. Sarebbe un bel successo. Sarebbe una goduria. Non posso negarlo. Non lo neghiamo. Senta, vogliamo dire due paroline al vescovo di Ragusa, al signor vescovo di Ragusa, no? Lei ha letto cosa ha detto? È una cosa molto dolorosa, mi sembra, no? Di capire. Onestamente non so di cosa... Il signor vescovo di Ragusa, Paolo Urso, ha detto: quando due persone decidono, anche se sono dello stesso sesso, di vivere insieme, è importante che lo Stato riconosca questo stato di fatto. Uno Stato laico come il nostro non può ignorare il fenomeno delle convivenze. Poi la valutazione morale spetterà ad altri. Insomma, il vescovo di Ragusa dice che lo Stato deve riconoscere l'unione tra le coppie dello stesso sesso. Il vescovo di Ragusa. Vogliamo dire due paroline sul signor vescovo? Si pone al di fuori della Chiesa oppure no? Per amor di Dio, non sarò mica io a dire che un vescovo sta fuori della Chiesa. Vabbè, dall'alto della sua cattedra. No, io mi occupo di altre cose. Io dico che il matrimonio è una istituzione la quale chiede un padre, una madre, un uomo e una donna. E vabbè, quello lo sappiamo. Dunque, il signor vescovo... Se il vescovo di Ragusa la pensa diverso, mi spiace, ne parleremo. Beh, come ne parleremo? Cioè, intanto ha parlato lui, cioè, voglio dire, è completamente al di fuori del cristianesimo. Per amor di Dio, io non ho mai scomunicato nessuno. Scomunichi qualcuno per la prima volta, Buttiglione. Cioè, non c'è niente di male a scomunicare qualcuno. Non comincerò oggi. Io le mie posizioni sul matrimonio gay sono chiare. E le tengo. Non per ragioni confessionali, ma per ragioni ragionevoli che ho spiegato. E vabbè, su cui non torniamo, certo. Ogni volta che si registra. Guardate che anche Obama sul matrimonio gay, non, almeno all'inizio non era d'accordo, oggi è un po' in dubbio, ma per lungo tempo si è dichiarato non d'accordo. Questo che vuol dire? Che c'è tanta gente la quale non è cattolica, Obama non è cristiano ma non è cattolico, e che però pensa che il matrimonio sia una cosa che richiede un papà e una mamma. Un papà e una mamma. Sento una cosa, in molte città falliscono le coppie, i registri sulle coppie di fatto. È successo a Gubbio di recente, dove addirittura il sindaco del Partito Democratico ha votato contro per la cancellazione dell'unione di fatto, dicendo che negli ultimi anni erano stati introdotti questi registri e si erano iscritte due coppie, tre coppie, eccetera. A Milano Pisapia sta cercando di introdurre questa cosa, però c'è una resistenza addirittura da parte del capogruppo del Partito Democratico, la signora Rozza. Le do queste notizie, Buttiglione, se non le ha lette. Secondo lei i registri sono delle cose inutili o no? Secondo me la spinta verso questi registri è molto più un fenomeno di pubblica opinione che una vera domanda della comunità gay. Ho capito, cioè nel senso no, nemmeno i gay li vogliono questi registri. No, perché in genere, salvo eccezioni, perché la vita è sempre complicata, ci sono sempre eccezioni, ma le convivenze gay raramente hanno quei requisiti di durata, di stabilità che rendono, che legittimano una domanda di registrazione. Per cui non c'è in realtà una vera e propria domanda vera, è una cosa di lobbistica, è una cosa lobbistica. Non lo so, mi pare, anche perché in altri paesi abbiamo dati congruenti, cioè rispetto ai dati della comunità gay, quelli che fanno uso di queste opportunità sono relativamente pochi. Ecco. Va bene, l'abbraccio professore, a presto. A presto, arrivederci. A presto. Viva la zanzara, sempre. Saluti il signor Cesa. Saluti Cesa, Non mancherò. Grazie. Vittorio della provincia di Varese, lo mandi qualche volta alla zanzara per divertirsi. Vittorio della provincia di Varese, lo mandi, cioè gli dica di venire. Insomma. No, ma mi dispiace perché non lo si sente mai, non lo si vede mai. Poche volte, sempre là. E invece è il segretario di un partito, scusa. A tramare nell'ombra. Ma a tramare in senso buono. In senso... Un giorno che ci mangiamo le tagliatelle assieme, così lo conoscete, capite che non è il tipo che trama nell'ombra. Ma tramare nell'ombra in senso buono, sta là a fare le sue trattative, le sue cose, no, i suoi partito, ma voi non avete idea di cose come è difficile guidare un partito. Guida un partito, appunto. Fare tempo a mettere d'accordo la gente. Lo so, è una fatica tremenda, peggio che guidare il camion come questi dei tir, no? Un grande tessitore. Quello era Cavour, eh? Comunque un bel paragone, grazie. Vittorio, provincia di Varese, buonasera. Buonasera a lei. Senta, io vorrei tornare per un attimo a quella telefonata della signora che parlava di Celentano, sì, a cui lei ha detto che si indigna dell'argomento perché l'eventuale compenso, se ci fosse, sarebbe un omaggio alla legge di mercato. Ma se lo dico, stante il periodo in cui siamo, non sarebbe giusto che Celentano dicesse sì, va bene, legge di mercato, però io mi impegno pubblicamente che quei soldi li ridò in beneficenza, perlomeno aiuto il governo e lo Stato in questo periodo di particolare gravità, in particolare esigenze. Vittorio, guardi, però lei parla, mi perdoni, mi lasci finire. Mi dica. Da quando è nata, dai tempi dei violini e Radio Londra, eccetera. Per cui le chiedo un attimo, poi magari per attimo. Ma chi mi vuole chiedere? Non ho capito. Le volevo appunto finire dicendo: ma quale legge di mercato? Legge di mercato per due personaggi, Benigni e Celentano, che sono due persone rispettabilissime, ma omaggiano più il socialismo reale che la legge di mercato. Ma adesso il socialismo reale, mi sembra una cosa da manicomio. Lasciamo stare il socialismo reale. Comunque non sono vicino al capitalismo. Le leggi di mercato sono frutto di capitalismo, fino a poco contrario. Quelle due signore lì, ricchissime, eccetera, eccetera. Fanno i comunisti. No, guarda, io sono di destra, non sono comunista. Per no, fanno i comunisti, loro. Dice lei. Ma non mi pare che, insomma, sventolino bandiera rossa, sì, forse Benigni qualche volta è successo. Sì, ma le leggi di mercato, anzitutto, nei periodi in cui siamo... Guardi, a me, francamente, di quanto dà la RAI al signor Celentano, non me ne può fregare di meno, non me ne frega assolutamente nulla. Cioè, a me importa che ci sia qualcuno che risponda del budget della RAI che impiega per Sanremo, ci sono gli organi preposti a fare questo, che le cose siano trasparenti e che non ci sia un balletto sulle cifre. Cioè, Celentano prende tot, che lo dicano, perché saremo una delle più grandi manifestazioni che la RAI propone, è giusto che i compensi siano pubblici e tutto quello che volete, però non mi scandalizza nulla. L'unica cosa è che, insomma, a Celentano, solo che quando lo dice lei, quello che dice lei lo stanno sentendo in tutta Italia, allora? E per cui influenza. Ma perché deve influenzare? Non è che perché c'è la crisi, c'è la gente in difficoltà, allora bisogna bloccare queste cose qui. Dobbiamo tutti accontentarci di meno, addirittura non essere. Si fa un piccolo momento di pausa per gente che di soldi ne ha tanta, dice aiutiamoci tutti. Scusi, ma che vuol dire questo qua? Guarda, io sono contro i camionisti, non è questione di essere contro i camionisti, sono completamente di destra, però c'è gente adesso per la quale si mette in discussione un po' i contratti. E allora? I sacrifici li fanno tutti, non è il periodo che li facciano anche le persone che dice lei. Scusi un attimo. Se uno gli propone un contratto a 300.000, non è che può dire no, scusi, siccome il paese è in difficoltà, la RAI bisogna che mi paghi di meno. Ma scusi, ma stiamo scherzando oppure stiamo dicendo sul serio? Franco da Cosenza, buonasera, grazie Vittorio. No, ma poi c'è di più. Non è che se non dai meno soldi a Celentano, quegli altri soldi lì vanno a chissà chi. Non è così, perché evidentemente Celentano vale quel pezzo, perché la pubblicità c'è, perché c'è anche Celentano. Quindi non è che se risparmi su Celentano assumi 4 precari alla RAI. Purtroppo non è così. Franco da Cosenza, meno male che non assumono 4 precari alla RAI, che già ce ne sono troppi. No, Franco, ma molto indirizzo, perché volevo mandarle un'ambulanza. Sì. Perché stasera ha detto una corbelleria proprio grossa. Che ho detto? Ecco. Scusi, mi dica. Ha detto ne dico tante, dunque può darsi che ne abbia detto una anche stasera. Sì, ne dice tante, ma stasera ne ha detto una più grossa. Mi dica che cosa ho detto. Nel senso che ha detto che, a proposito della Concordia, che non è reato avvicinarsi a 200 metri. No, non ho detto questo, non ho detto questo. Non ho detto questo, Franco, lo vede che ha capito male? Lo vede che non ha capito niente? Io ho detto l'inchino. Franco, si calmi, Franco. Non è reato. Oh, insiste ancora. Siccome io un gommone. Franco, io non ho detto che ci si deve avvicinare a 200 metri. Non ho detto che ci si deve avvicinare a 200 metri. Ho detto semplicemente questo. Se si resta una distanza, questo forse non l'ho detto, ma era implicito. Se si resta una distanza di sicurezza come previsto dalle leggi, avvicinarsi a un'isola o a una costa Allora, lo dico in maniera seria, così mi capisce, in maniera compiuta e non con uno slogan, non con una frase secca. Se non si compiono reati, cioè dire se ci si avvicina reati, insomma, se non ci se si rispettano le regole che riguardano l'avvicinamento a una costa, si può tranquillamente fare quello che si chiama inchino, anche come dire, deviando dalla rotta, anche deviando dalla rotta, cioè fino a quando, cioè, qual è la distanza prevista? Se si sta al di là della distanza prevista, uno può fare tutti gli inchini che vuole perché non si incontreranno scogli, eccetera eccetera. Se uno fa un inchino violando le regole, è evidente che viola le regole e dunque non si può fare, però non si possono condannare tout court quelli che si chiamano inchini, quello volevo dire io, caro Franco. Allora, ha detto un'altra cosa, adesso ho precisato bene. Ho precisato, vabbè, mica faccio il politico però che devo precisare le cose, abbia pazienza. No, lei deve dire cose esatte, altrimenti deve accettare che uno gli mandi, uno come me gli mandi l'ambulanza. Ma va benissimo, lei me la può mandare, certo, certo. Gliela mando. Me lo dà l'indirizzo che gliela mando. Via Monterosa 91. Via Monterosa 91. Milano. Sta arrivando 20149. Ma cosa fa? Com'è che fa questa sirena? Ma chi? Aspetti un attimo, aspetta. Questo non è una sirena. È un coro questo, un lamento, no? È un film porno, Senta, Franco, senta questa sirena come si fa? Senta la sirena. Ah, ecco, benissimo. La faccia meglio, cerchi di farla meglio. I tecnici servono pure a queste cose. Così come pure lei ha computato Grillo quando ha detto che il naufragio della Concordia è una metafora dell'Italia. E ha detto, ma perché? Forse io, modestamente, forse io mi posso permettere pure di dirglielo. Sì, Franco, ce lo dice fra poco dopo la borsa, grazie. Stressare molto, e la paura di farlo fuori. Siamo come le zanzare, siamo ancora qui, siamo ancora qui. Mi rompo le balle a vedere ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti, signori, che sventolano il nulla. Com'è potuto accadere il disastro dell'isola del Giglio? È la metafora del nostro tempo. Siamo qui, questa è la Zanzara, caro Parenzo, Eccoci qua. Sono qui imbottigliato in un traffic jam, come diciamo noi inglesi, traffic jam, marmellata di traffico. Bah, eravamo con Franco da Cosenza, signor Franco da Cosenza. Che dice ma lui? Franco? Franco? Non c'è più. Antonio da Chieti, andiamo. Stiamo Chieti. Vada. Buonasera. Cruciani, 5 secondi, gli do del tu per 5 secondi. Ti do un bacio in bocca quando fai parlare questi cialtroni. Beh, guardi, però io non gradisco molto. Però vabbè. No, si fa per dire, io sono. Beh, si fa per dire, esatto. Comunque, certe cose ti bacio, ti abbraccio, sì, perché? Perché, che ho fatto? Chi si riferisce? I politici. Piano piano li portate, veramente. Io una volta lo criticavo questo. Ma adesso che li portate piano piano, si ridicolizzano da soli. Per esempio? È una per cosa esempio? Stupenda. Capito? Questo signore che ha parlato poco fa. Chi ha parlato poco fa? Il politico. Come si chiama? Che ne so, se non lo sa lei. Buttiglione. Dice... Buttiglione. Buttiglione. Lei così ecco, che si difende i soldi che prende, i 3.000 euro per la vicepresidenza. Veramente sono ridicoli. In questo momento questi signori, dopo che hanno portato l'Italia veramente in mezzo a una strada, tutti quanti, da destra, a sinistra, centro, tutti, compresi quelli che io ho votato, tutti, che hanno votato gli altri, dovrebbero lavorare gratis per riparare i danni che hanno fatto. Invece c'è un clima di questo tipo, comunque c'è un clima di questo tipo, come lo descrive Antonio. Per esempio, voglio farvi sentire, dopo andiamo con un paio di ospiti, addirittura perché si parla dello stesso tema, Guzzanti, Paolo Guzzanti, che dice oggi, ha parlato a nome di PT, Popolo e Territorio, come dici tu, Bobolo. Popolo e territorio. Come parla di politici del massacrati come polpette. In questo periodo i politici sono massacrati come le polpette. Poi perché le polpette? Non è... Polpette sono una cosa buonissima. Comunque sì, maciullati voleva dire. Sentiamo. Chiediamo a tutti una riflessione in nome della democrazia e del Parlamento. Parlamento che è stato massacrato in questi ultimi anni da campagne di stampa che ne hanno fatto polpette. Siamo stati massacrati come immagine, come istituzione. Gli italiani sono convinti che la democrazia ormai non solo sia un peso, non solo sia inutile, ma un peso, e che il costo della politica è il costo della democrazia stessa. Però bisogna anche capire le ragioni. Allora, abbiamo innanzitutto quello che ha introdotto Berlusconi al mondo di internet, diciamo la verità, il grande guru dietro il portale del PDL. Beh sì, lo dobbiamo dire perché è così. Antonio Palmieri, buonasera. Buonasera Cruciani, un saluto a lei, a Parenzo e a tutti. Grande onorevole, un abbraccio fortissimo. Sono un piccolo guru perché sono alto, astento, 1,68. E vabbè, ma comunque un guru in miniatura, insomma, se non, si butti un giù. Gurino, mettiamo così. 1,68 mica è una roba da vergognarsi. Cioè, No, io sono stato fatto così e quindi... essendo realista vivo con me stesso, felicemente. Senta, ma Berlusconi, diamo un voto, però mi sia sincero, lei è molto vicino a Berlusconi, al presidente Berlusconi, però cerchi un po' di staccarsi un po' dal suo ruolo, no? E che progressi ha fatto da quando lei lo iniziò al mondo di internet? Cioè, che voto diamo a Berlusconi oggi? Questa è la stessa domanda di un anno fa. E vabbè, ma in un anno si possono fare dei miglioramenti. Sicuramente i miglioramenti voi li potete vedere da oggi pomeriggio se digitate pdl.it. E che miglioramenti? C'è il nostro nuovo portale. E quello lo sappiamo? Totalmente rinnovato. E allora ma i miglioramenti di Berlusconi, non del portale? I miglioramenti del PDL sono i miglioramenti di Berlusconi. Nel senso che come più volte Berlusconi ha annunciato, sì, e oggi diamo il calcio all'inizio di questa avventura, sì, vogliamo essere ancora più presenti che mai in internet. E va bene, d'accordo, però... Però la questione è molto semplice. Il presidente Berlusconi, sì, che è un uomo attentissimo alla tecnologia, alla modernità, sì, più volte ha mostrato qualche carenza non solo lessicale nella conoscenza del mezzo. Disse Google. iPid. iPid non l'ha detto. iPid parlò del mangia nastri, addirittura del mangia cassette. Disse, questo lo ricordo benissimo. Ecco, che voto diamo oggi in informatica a Berlusconi? Palmieri, lei che... andiamo a Piazza di Pietra. Quanto gli possiamo dare? Un 6,5? Un 7? Io penso che dobbiamo dargli sicuramente un 5, ma per il motivo dell'altra volta, cioè dire, come ho detto già l'altra volta, non è necessario essere dei grandi giocatori per essere poi dei grandi allenatori, e quindi da questo punto di vista la lungimiranza sta nel fatto di fare sì che noi si proceda nel mezzo del mezzo. Vabbè, ma quello non è che ci vuole Berlusconi. Ma non è che ci vuole Berlusconi per dire che è importante rinnovare il sito, eccetera. Questo andrebbe sarebbe una cosa. Sono avvenuti nel passato fenomeni anche di segno opposto, e comunque io penso che veramente il dato vero sia... Qual è il dato vero? Quello che gli italiani non vogliono che Berlusconi stia a smanettare su Twitter, ma continui a lavorare per cercare di risolvere i tanti problemi del paese. Ho capito, lei dice chi smanetta... Sono obbligati a ripetere. Cioè, chi smanetta su Twitter alla fine è un perditempo. Ci sono diverse responsabilità e responsabilità, ci sono colleghi parlamentari che smanettano e secondo lei è perdere tempo? Perché possono permetterselo, perché attraverso quello contattano i cittadini che li seguono. Hanno meno responsabilità, diciamo la verità. Berlusconi non sa cinguettare, ad esempio. Non sa cinguettare. Eh? No, conosce Twitter Berlusconi, non sa cos'è. Cinguettare o no? Sa cos'è Twitter, Vabbè, non lo sa, Palmieri, su non lo sa cos'è Twitter, diciamo la verità, non ma lo sa. Ma non è un reato, non è che se non lo sa, Pocattini apre un fascicolo. Lo sa. Senta, ma Google lo pronuncia bene stavolta, ha migliorato, gli ha detto che non è Google, è Google oppure no? Facevate prima a rimandare in onda c'entra. Come l'ha detto iPad oggi? Sentiamo un po' iPad come l'ha detto, risentiamo. L'ha detto rotondo, l'ha detto. Aspetta, sentiamo. Questo nuovo portale così ricco di novità, accessibile anche dal cellulare e dall'iPod. iPod, sei un po' l'ha così. L'ha detto rotondo all'inglese. L'ha detto? Rotondo. Cioè, rotondo, ce l'ha detto all'inglese. Certamente, ma anche qui, se vogliamo guardare la luna anziché il dito, il dato vero è che il nuovo portale è totalmente fruibile in mobilità. Vabbè, ci mancherebbe altro. Se vuole glielo dico forbitamente. No, no, ci mancherebbe altro, perché... quindi, vabbè, sarebbe il massimo. Senta un attimo, Palmieri, però... Ma Berlusconi ha un profilo Facebook, ad esempio, o no? No, sì, come no. Ce l'ha. Abbiamo suo? La pagina Facebook, certo. Ma abbiamo oltre 363.000 fan registrati. Ma chi ci va? Lui ci va ogni tanto? Sì. No, ci scrive ogni tanto? La pagina quotidianamente la gestisco io, con le persone che poi lavorano con me. Certo. Però ogni tanto... quando lavoriamo su queste cose, evidentemente la facciamo vedere, osserviamo insieme i progressi e ragioniamo sul da fare. Ma chatta lui ogni tanto, no? No. No, io voglio diventare vale lo stesso discorso di Twitter. E Cicchitto ha un profilo Facebook. Ma perché sei fissato con Cicchitto? Ha un profilo Facebook, sì. Io voglio diventare amico su Facebook di Cicchitto. Ma non te la dà l'amicizia, Cicchitto. Sei diventato Non so se è un profilo o una pagina, questo perché non lo seguo. Palmieri, lo sai, è diventato un nemico di Cicchitto. Non è vero, no. Sì, si ti ha mandato via l'ultima volta, lo volevi intervistare, ha fatto vai via, ha detto vai via, così, vai via. No, ha detto semplicemente sei un cretino, ma l'ha detto. Sei un cretino. Senta, perché qualcuno ha scritto a Berlusconi quel discorso assurdo di oggi sulla libertà, sul partito dell'amore? Ma cosa c'entra? Perché uno, per presentare un nuovo sito, che per carità è una bellissima iniziativa, eccetera, uno debba citare per forza l'amore? Chi ha scritto quelle cose? Lei, Palmieri? Non mi dica che è stato lei, perché non ci credo. Allora, intanto lei ha dato un giudizio su... definendo assurdo questo discorso, evidentemente per chi l'ha fatto tanto assurdo non è. Beh, quello non c'è dubbio, se no sarebbe masochista. Se vuole sapere, perché oggi, come lei sa, festeggiamo tra le altre cose il 18° compleanno del Berlusconi politico, essendo sceso in campo ufficialmente il 26 gennaio del 1994. Bisogna festeggiare? Bisogna festeggiare? Fa la festa? Certo, bisogna festeggiare, perché se non fosse sceso in campo Berlusconi nel 94, che sarebbe successo? Non, come lei sa, ma mi dica la verità, che sarebbe successo? Saremmo meno liberi. A doverlo ripetere, con la nuova legge elettorale del tempo, saremmo meno liberi. Avrebbe vinto con poco più del 30% dei voti la stragrande maggioranza di sé. E saremmo meno liberi? Molto probabilmente sì. Meno liberi. Beh, avrebbe vinto una coalizione invece di un'altra, o no? Non ci sarebbe stata una coalizione, ci sarebbe stata una coalizione contro niente, perché saremmo avuto una serie di forze frantumate e inconciliabili tra loro, loro MSI, la Lega Nord dell'epoca, i rimesugli, i resti della Democrazia Cristiana e degli altri partiti, che sarebbero stati schiantati con la nuova legge in maggioritaria. Vabbè, insomma, lei dice saremmo stati meno liberi. Vabbè, comunque, chi l'ha scritta quella cosa là? Chi l'ha la frase sull'amore? Chi l'ha suggerita? È stato di suo pugno? L'ha scritto di sua iniziativa? Certamente. L'ha scritto lui, vabbè. Traffico, poi torniamo con un consigliere regionale dell'Italia dei Valori della Lombardia che è in collegamento con noi, sempre di iPad parliamo, Gabriele Sola, buonasera. Buonasera. Come sta, signor Sola? Già sporto querela nei confronti del signor Boni? Beh, ho mandato al mio avvocato di procedere. Ma insomma, però... Boni è stato cattivo, è scorretto, ha detto tante bugie ieri, sa. Sentiremo tra poco. Grazie, Palmieri, a presto. Si imbarchi. Saluti a tutti. Oh, allora, chiariamo definitivamente questa questione. Ieri il presidente del Consiglio regionale Lombardia, il leghista Davide Boni, ci ha detto per risparmiare sulla carta abbiamo speso 50.000 euro regalando un iPad 2 a tutti i consiglieri regionali in Lombardia. Iniziativa, come dire, se fosse vero, e non lo mettiamo in dubbio, che si risparmia la carta, insomma, eccetera, eccetera, iniziativa non da casta, ma in realtà è un'iniziativa per risparmiare, dunque va bene, le tecnologie, eccetera, eccetera. L'unico, diceva Boni, che ha rifiutato questa iPad 2 perché voleva pure le applicazioni, è stato l'esponente dell'Italia dei Valori, Gabriele Sola. Sola. In romano Sola significa una cosa, per carità, lei è romano, Sola? No, io vivo a Bergamo, sono vercellese di nascita. E, no, la cosa che mi stupisce è che Boni, che è padano, ironizzi sul mio cognato. Finché lo fa lei, che è romano, caro. Ma no, ma io ironizzo, Noi ironizziamo. Mi chiamassi Gabriele Ciula o Gabriele Pirla, capirei. Ma insomma, Gabriele Sola per un padano dovrebbe essere un cognome. Il problema è che io sono Sola con la S maiuscola. Sono Sola di nome, lui è un po' Sola di fatto. Perché? Io... perché ha raccontato, prima di tutto, ha detto che io avrei rifiutato l'iPad unico su 80 perché volevo anche le app gratis. Invece oggi ho pubblicato in rete la lettera, scansionata e protocollata, dove dicevo un'altra cosa. Dicevo, caro Boni, è inutile che ci date l'iPad senza però le cose per farlo funzionare in modo... Non serve a nulla. Bravissimo, non serve a nulla. Se vogliamo dematerializzare gli altri, cioè stamparmeno carta, bisognerebbe che l'iPad non fosse un qualsiasi computer, come di fatti oggi è, in effetti oggi è. Dovete sapere che noi all'inizio della legislatura abbiamo ricevuto, ciascuno di noi, un fantastico PC. Nel momento in cui questa anche famosa... anche il PC. Eh certo, come dite voi a Roma, non se famo manca niente, no? Quindi abbiamo incamerato il PC. Questi famosi atti come vengono dematerializzati? Vengono inviati attraverso email, come allegati email, o attraverso il web. E a mio modo di vedere funziona meglio il PC che non l'iPad, a meno che non ci fosse qualcosa di straordinariamente innovativo. Allora? Siamo l'eccellenza qui in Lombardia. Il problema è che questa cosa così innovativa non esiste. E io nella mia lettera dicevo testualmente: cioè non si risparmia su nulla, è tutta una bufala questa roba qua. Ma io non so se può darsi che un domani, investendo sulla ricerca, i cervelloni di Regione Lombardia. La cosa importante è questa: è vero o no che oggi ti arrivano tutte le delibere, tutte le rassegne stampa, tutto quello che viene prodotto e che prima veniva prodotto in carta, secondo questo mondo magico che ci ha descritto il presidente Boni, vi arriva adesso attraverso l'iPad? No, ci arriva attraverso email e attraverso dei link che sono agevolmente raggiungibili attraverso i computer. Non se non è indispensabile l'iPad, poi io vorrei anche ironizzare un attimo, sì, però non vorrei che venisse usato alcune in aula come pure a Montecitorio, voglio dire, no? Si va nei siti porta. Lei dice, secondo lei avviene questo poi alla fine? Da noi al Pirellone in effetti non c'è bisogno, cioè abbiamo già delle presenze in aula che ci ispirano, forse ci vengono portati alla navigazione. Cioè lei dice, noi ce l'abbiamo dal vivo, insomma, no? Ce l'abbiamo dal vivo le protagoniste di certi film porno. No, così non lei non ha detto. No, sola, questo ha detto lei, scusi però. Potrebbero derivare. No, non mi lei ha detto l'ispirazione ce l'abbiamo dal vivo. E così invece in Parlamento vanno sui film porno, sui siti porno. No, di fatto che la sola. Allora, io a sta cosa del fatto di aver restituito l'iPad non l'ho detto a nessuno perché sennò poi mi pigliavo del demagogo. Ma poi l'ha preso o no? L'ha preso alla fine sto iPad o no? Che poi è iPad. Ho restituito un iPad. Gliel'ho restituito con una letterina che ho pubblicato via internet ed è ancora, non so in quale ufficio si trovi, ma non ce l'ho, quindi insomma non... E poi? Allora alla fine è vero che me l'ha preso, ce l'ha ragione Boni, però non l'ho preso, certo che c'è ragione Boni, ma non l'ho preso scrivendo sulla lettera che se non davano certe applicazioni. No, ho detto, poiché non ho rilevato alcuna miglioria e dalla luce dell'esigenza di limitare il più possibile i costi in capo alla pubblica amministrazione, ritengo di dover restituire il dispositivo a me assegnato. Cioè, per fare quello che, per raggiungere l'obiettivo bastava il computer che già ci hanno dato. Certo. Che poi io l'iPad ce l'ho, me lo sono comprato, sono un fan della Apple, c'è tutto. Se l'è comprato da solo. Secondo lei era corretto che i consiglieri regionali, che comunque guadagnano eccetera, se invece di far spendere i soldi alla regione, se lo fossero comprato da solo, giusto? Ma secondo me sarebbe corretto investire in altre cose. Ci abbiamo un wifi che funziona singhiozzissimo, per esempio. Alla regione. Tanto per dire. E quindi... Però le pare strano che lei è l'unico che non l'ha preso, cioè è l'unico che ha fatto questa osservazione. E questo l'ho scoperto ieri sera da Boni, non pensavo, non sapevo, le dico sinceramente, non mi sento certo un eroe per questo, insomma, voglio dire, probabilmente, ecco, però vorrei anche dire... Anche che i suoi colleghi dell'Italia dei Valori l'hanno preso, gli altri suoi colleghi. Sì, no, ma in effetti io voglio anche dire che molti consiglieri continuano ad attendere queste famose innovazioni, queste grandi novità, questi applicativi straordinari. Fino adesso non c'è nulla, quando ci sarà insomma, quando l'hanno dato sto iPad? E l'hanno dato lo scorso mese di novembre. A novembre, da novembre adesso non è successo nulla, già questo non serve per lavorare. No, ma io devo anche dire che il progetto nasce nell'ottobre del 2010, c'è una bella delibera, domani pubblico anche questa su internet, dell'11 ottobre 2010, tra l'altro l'ufficio di presidenza che Boni definì, definì una Ferrari, quindi non ne capisce di macchine o non ne capisce di politici, perché era... C'era Nicola Cristiani, sì, lo so. Penati, Ponzoni, che invece è un'altra persona, ecco, questi qua decisero di attribuire ai componenti dell'ufficio di presidenza, ai gruppi consigliari, al segretario generale, un iPad o similare al fine di una sperimentazione. Però adesso andiamo alla come dire, alla realtà delle cose. Lei vuole, secondo me alla fine non lo farà, portare in tribunale Boni perché ha detto che lei è stato l'unico perché voleva rifiutare questo iPad perché voleva pure le applicazioni. Adesso non mi sembra una cosa da tribunale sola. Non lo so, è una brutta cosa. Poi detto ad uno, voglio dire, per la carità, che ha fatto Boni? Nicoli Cristiani, detto ad un Nicoli Cristiani, può anche detto uno dell'Italia dei Valori che si impegna su certi temi, insomma, è una coltellata, Una coltellata. Vabbè, Sola, abbiamo spiegato che lei ha rifiutato questo iPad perché non, perché secondo lei serve a poco. Giusto, serve a poco, è stata una spesa eccessiva che potevamo anche risparmiarci per fare le cose che promette Boni, in realtà basta il computer che abbiamo e basta, abbiamo detto tutto? Non lo so. E che ne so, mi dica lei. Voglio parlare di Regione Lombardia. No, che Regione Lombardia, dobbiamo chiudere. Una prossima volta, abbiamo chiarito queste cose, grazie Edmondo. Grazie. Edmondo D'Arieti, buonasera. Buonasera, intanto complimenti ai conduttori perché con Buttiglione è difficile mantenere alto lo stile della trasmissione, fa addormentare chiunque. Lo so, non ci faccio addormentare pure lei perché dobbiamo andare in realtà in pubblicità e in chiusura, mi dica. Guarda, volevo dare un suggerimento del perché si è tanto scioccato Monti riguardo il potere. Sì. Questa è una scusa un po' bisunta, nel senso, chiunque è andato al potere ha detto sempre che non ce l'aveva, perché di fatto comandava qualcun altro. Berlusconi per 20 anni ha detto che non poteva fare le cose. Ma se ce lo dice pure lui, vorrei sapere chi ci dobbiamo andare, al potere o chi comanda. Beh, non è male questo Edmondo, però secondo me la spiegazione è quella che ha dato Parenzo, cioè la parola andato al potere lui aveva intesa come andato al potere in maniera illegittima. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Ciao. Un coglione solo, vero? Non. Quindi con Parenzo avete fatto la coppia. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. La Zanzara.